Siamo in presidio perché un nostro attivista dei Cobra della Granarola è stato licenziato su due piedi dopo 18 anni di lavoro specchiato senza nessun problema, sempre ottimo sul lavoro, dal 5 settembre. È stato licenziato semplicemente perché a seguito di una discussione che c'è stata dentro lo stabilimento tra lui e un delegato confederale sull'applicazione del nuovo contratto integrativo, insomma diciamo una discussione di tipo sindacale sui contenuti. Però l'azienda ha deciso di intervenire in questa maniera cacciandolo a casa. Il presidio e la conferenza stampa di questa mattina come stanno andando? Il presidio sta andando molto bene, c'è stata la solidarietà di altri gruppi dei COBAS della scuola, del comune e poi abbiamo anche, sono usciti una parte di lavoratori della Granarolo, anche sono usciti anche degli iscritti alla CGIL per esempio per manifestare la solidarietà con Salvatore. Adesso noi vogliamo appunto denunciare questa situazione e intanto l'avvocato sta preparando comunque la causa perché noi vogliamo che Salvatore sia reintegrato. Sì, appunto, state preparando la causa. Una domanda a questo punto sulla questione legale, nel senso che se lui lavorava lì da 18 anni suppongo che avesse un contratto a tempo indeterminato. A tempo indeterminato, certo. E proprio sulle tutele legate al contratto a tempo indeterminato c'è stata ieri la sentenza della Consulta secondo cui parte del Jobs Act era illegittimo. Sì, infatti con lui hanno seguito la via del licenziamento disciplinare, anche perché la politica della Granarola adesso è di cacciare a casa quelli dei dipendenti a tempo indeterminato con anzianità. Nell'ultimo anno sono stati licenziati già in 8 per varie motivazioni, per poi sostituirli con interinali e cooperative. Quindi è proprio una pratica gestionale dell'azienda a questo punto appare. Qualunque motivazione venga fuori, se ne approfitta per licenziare le persone con anzianità, persone a tempo indeterminato, per poter ridimensionare l'impianto e gestire il personale invece secondo le nuove regole, con gli interinali, eccetera. Quindi continua l'erosione di diritti. Per quanto riguarda il sindacato, diciamo, coinvolto nella battaglia precedente poi a questo licenziamento, c'è stato qualche riscontro da parte loro in seguito al licenziamento? No, non abbiamo, tendi a dire dalla CGIL, non abbiamo avuto nulla, non abbiamo rapporti, insomma. Possiamo solo presumere che dalle dichiarazioni dell'altra persona coinvolta lui abbia accusato, puntato il dito contro il nostro delegato, perché altrimenti non si capisce. Cate verranno fuori in tribunale. Noi per parte nostra abbiamo sempre cercato di mantenere i toni dentro un livello non di scontro interno, perché non serve a nessuno e perché non vogliamo che nessuno si giochi il posto di lavoro, indipendentemente dalla sigla a cui possa eventualmente appartenere. Evidentemente non tutti la pensano così. Siamo ora in collegamento con Salvatore, il lavoratore che è stato licenziato appunto da Granarolo a seguito dei fatti finora raccontati. Salvatore, potresti raccontarci che cosa stai vivendo tu in questo momento? Guardi, io sto vivendo una situazione veramente incredibile. Cioè, io sono stato licenziato senza aver fatto niente. Qua si parla di una discussione. Ho fatto una discussione con un delegato della CGIL e tutto è successo. Dopo 5 giorni mi è arrivata una lettera di licenziamento dicendo che io avevo ferito sta persona, che non hanno niente in mano, non hanno certificati, non ha aperto un infortunio, non c'è denuncia, niente. Hanno usato questa cosa per, non lo so io, come mai mi stanno mettendo a casa, non riesco a capacitare. Sono 17 anni che lavoro in questa azienda e non ho mai avuto una lettera, non c'ho mai niente, c'ho lasciato 2 ermi al disco e mi stanno trattando così, alla prima occasione. Hanno assunto nel 2016 una tagliatrice di teste e lei per ogni cosa mette a casa tutti. Ha già messo a casa 8 persone in 2 mesi. Io ho una famiglia con 2 figli e tutto questo è veramente incredibile. Mi stanno lasciando in mezzo a una strada. Non so cosa, è una storia incredibile. Se mi potete aiutare a spargere sta voce, a far sì che la Granarolo dice di essere un'azienda etica, ma invece sta sbattendo in mezzo alla strada gente che non ha fatto niente, sulla base di parole, di cose dette, di cose senza nessun documento in mano. Ripartiamo dal clima presente nell'azienda, nel senso il clima in questo momento... È surreale il clima, perché poi adesso sembra quasi un fatto politico. Da quando noi siamo entrati 6 mesi fa con i COBAS in azienda, e da lì siamo stati torturati a morte da sta CGIL, che l'azienda poi è nata con sta sigla sindacale. Si stanno comportando, guarda, ti dico, peggio dei mafiosi. Ti volevo chiedere, rispetto alla CGIL, è corretto che però alcuni iscritti alla CGIL sono in presidio lì con te in questo momento? Sì, ce ne sono un paio di ragazzi, 2 o 3 ragazzi, 4 o 5 ragazzi sono venuti, sì. Ma perché ci conosciamo da una vita, lo lo sanno che persona sono. Quindi diciamo che tra i lavoratori in realtà c'è solidarietà, il problema è poi a livello sì, di discussione. Sì, solo che noi, sai, non abbiamo fatto uno sciopero, abbiamo fatto un presidio. Molti ragazzi sono dentro a lavorare perché poi adesso comunque c'è una paura di essere licenziati che è allucinante. Cioè qua stanno diventando dei robot, la gente che prima diceva la sua adesso sta zitta perché ovviamente c'ha paura. Stanno lavorando con la paura in corpo, con la paura in corpo che possa succedere qualcosa, che possono prendere una lettera, che possono... È allucinante. Io adesso comunque sono in causa con loro perché non ho accettato di scendere a compromessi con l'azienda, perché non mi sembra giusto, ecco. Non mi sembra giusto, che poi io so, le cause sono difficili, sono, non lo so, almeno ci devo provare perché è un'ingiustizia bella e buona, capisci? Mi sento il dovere di provarci. Da parte degli altri lavoratori che sono stati licenziati, non so se avete sentito qualcuno anche per la causa che state per portare avanti. No, loro, alcuni, sai, molta gente magari è scesa a compromessi, nel senso che hanno accettato magari qualche soldo dall'azienda e così si sono messi in conciliazione, sempre per la paura di non perdere una causa, per la paura di combattere contro un colosso come la Granarolo. Le paure sono quelle, ecco.